YouTube Social Village di Marta Cagnola. Buonasera, buonasera, bentornati a RadioTube. Sì, sono le 16 e 6 minuti, ma è già quasi sta facendo sera, quindi mi viene a dire buonasera, bentornati a RadioTube. Le nostre due ore in diretta il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18, dalle 16 alle 17. RadioTube Social Village per tutta l'attualità degli spettacoli. Questa settimana molta musica, abbiamo degli ospiti veramente che mi rendono molto felice e molta paura. Sì, Halloween è la prossima settimana, ma dobbiamo prepararci, va già di moda la paura questa settimana. Nella seconda ora, dalle 17 alle 18, RadioTube Social Network, per parlare di tanti fenomeni, parleremo molto di politica pop, parleremo di esteri e anche qui andremo un po' a curiosare in quello che succede nel mondo della musica e andremo addirittura in Russia. Ma cominciamo con il nostro RadioTube Social Village. Beh, ho già anticipato sui miei social chi sono gli ospiti di questa ora. Marta Cagnola è il mio account di Twitter, anche il mio account di Instagram. Invece i numeri, se volete mandarci un SMS o un WhatsApp, sono 349-238-6666. Ma le sapete i numeri di Radio 24. Insomma, abbiamo detto tanta musica e cominciamo subito con un ospite speciale che è già qua con noi. Molto contenta di aprire questa puntata di RadioTube con una persona che io apprezzo molto a livello personale, insomma a livello umano, ma anche con un grande musicista molto atteso, perché erano due anni che non sfornava qualcosa di nuovo. Adesso io ho un CD fisico, ce l'ho qua in mano, non so se sentite, ce l'ho in mano. Si chiama Equilibrium e qui con noi a RadioTube c'è Giovanni Allevi. Ciao Giovanni. Ciao, grazie. Vedi, grazie dell'accoglienza. Com'è averlo fisico in mano? È un doppio CD. È un CD-one. Doppio, sì. Allora te lo dico subito, io Equilibrium zero. E tu Equilibrium benvenuta. Come stai messo? No, malissimo, infatti. Ah, mi consola. L'inizio del periodo che ha dato via alla composizione dell'album parte proprio dalla consapevolezza di aver perso l'equilibrio, non solo nelle relazioni, nel rapporto sonno-veglia, nel cibo e tutto, ma proprio fisico. Cioè io non ero mi sono accorto di non essere in grado di essere in equilibrio su un piede solo. Allora sono andato su un'isola dell'Atlantico, mi sono rifugiato in una dimensione di totale isolamento. Ho letto Segreta, che non l'hai nemmeno svelata quest'isola. Poi, no, devo dire anche la delicatezza dei giornalisti, che quasi nessuno mi ha chiesto ma quale fosse l'isola. Ma è giusto che resti segreta, perché noi dobbiamo avere tutti un'isola segreta dove rifugiarci, nel cuore, non è necessariamente un luogo fisico. Tra l'altro, in questo doppio CD, nel primo sei anche pianista, nel secondo per la prima volta no. Sì, perché il primo CD contiene i miei brani per pianoforte solo, che eseguo io, e dei brani per pianoforte orchestra d'archi, che eseguo sempre io. Mentre nel CD 2 c'è il mio concerto per pianoforte orchestra numero 1 in tre movimenti, che è eseguito dal pianista americano grande virtuoso Jeffrey Beagle. Perché proprio hai scelto lui? Allora, guarda, veramente sembra un film. Sembra un film. Tu hai sempre questi aneddoti che poi... Ma è vita quotidiana, però io continuo a vederci cose. Il film. Allora, Jeffrey è stato lanciato quando era giovane da Leonard Bernstein e negli ultimi anni ha anche lavorato con Keith Emerson. E, oltre a fare il concertista, insegna anche pianoforte alla Brooklyn Academy a New York. Allora, un giorno un suo allievo ha lasciato per puro caso sul leggio del suo pianoforte lo spartito di una mia composizione. Ci ha messo le dita, le mani, l'ha suonata un attimo e si è innamorato della mia musica. Quella sera stessa mi ha scritto una mail dicendomi cose bellissime. Dai, che bello! Ed io ero sono stato talmente orgoglioso e lusingato da questo gesto anche poetico, e con lì mi sono sbilanciato, ho perso l'equilibrio e gli ho risposto che avrei voluto scrivere un concerto per pianoforte orchestra a lui dedicato. Concerto di pianoforte orchestra che io poi ho scritto, ho composto e che lui ha eseguito in prima assoluta mondiale negli Stati Uniti il 26 agosto scorso. Io sarei dovuta andare, sarebbe stato bellissimo ascoltare questa musica per la prima volta, ma a seguito di un distacco alla retina che ho avuto in Giappone durante l'ultimo concerto del tour, ho dovuto affrontare un lungo periodo di convalescenza durante il quale mi è stato praticamente vietato di fare lunghi viaggi aerei, quindi non ho potuto ascoltarlo dal vivo. Adesso tutto bene? Quasi. Dai, quasi. Insomma, tra le avventure prevedono a volte anche dei piccoli intoppi, certo, che succede certo. In Giappone... È un po' delicato. Sì, però, il caso, sempre il caso che ricorre, ma io non credo che proprio a un'ora e mezza di macchina dalla città dove ho avuto questo incidente ci fosse una delle cliniche più all'avanguardia nella cura dell'occhio del Giappone. Sono stato operato d'urgenza da un giovane luminare fantastico che si è poi mi ha raccontato, si è preparato all'operazione facendo meditazione, facendo dei disegni, una cosa incredibile. Fino a qualche anno fa tu sei stato protagonista, tuo malgrado, di un sacco di polemiche, di un sacco di liti, per un sacco di tempo sei stato sulla bocca di tutti, ma anche in mezzo a tanti liti. Che poi pensa un po' anche al mio carattere mite, no? Sì. Delicato. Che io abbia sollevato... Non che tu partecipassi, ma attorno a te tutto accadeva. Sì, attorno a me accadeva. Allora mi sono accorto che questa spaccatura, questo conflitto è stato forse inevitabile, perché era già presente dentro di me, era già insito dentro di me. E questo un po' me ne ha, come dire, me ne sono anche un po' fatto la ragione. E poi, come hai detto tu, il tempo, piano piano il tempo sistema le cose, La mia idea estetica comincia a trasformarsi proprio in note e comincia ad essere finalmente recepita. Ma io non ho fretta. Non so se piano piano col tempo riusciamo a raggiungere anche l'equilibrio, anzi l'equilibrium. Non so se te lo auguro e se me lo auguro, o se questa situazione è sempre un po' tra un polo e l'altro, invece è foriera di grande creatività. No, infatti io mi auguro di restare così, simpaticamente scombinato, ed adoro le persone che incontro poi dopo i concerti oppure durante gli store per la presentazione dell'album. Me li guardo negli occhi e scopro questo piccolo lampo di disorganizzazione interiore che mi innamora. Questo significa ci si essere, riconosce. Questo significa essere vivi, no? non quelli che sono tutti a posto, perfetti, dove tutto va a meraviglia. No. A me piacciono le anime tormentate. E questo è il popolo di persone che si stringe attorno alla mia musica e che si riconosce in quelle note. Allora, viva tutti quelli un po' tormentati come noi. Grazie a Giovanni Allevi. Grazie Giovanni. Grazie. Radio Tube Social Village. La notte di Halloween, Will ha visto una specie di ombra. Forse tutto questo succede per una ragione. Questi non sono incubi. Succede davvero. E tutto riconduce qui. Qualcuno avrà già riconosciuto la serie TV di cui stiamo per parlare. Allora, abbiamo sentito parlare di Halloween in questo primo trailer. Ci siamo quasi, ormai anche in Italia tutto viene ricondotto al tema di Halloween, va veramente di moda. C'è da dire che insomma, una delle cose che vanno per la maggiore in questi giorni è proprio la paura. Parleremo più tardi di un film tratto da un libro molto famoso che sta avendo un successo incredibile, ma cominciamo con le serie TV. Sta per tornare, è la seconda stagione di una serie che ha fatto veramente furore, stiamo ovviamente parlando di Stranger Things. Dove eravamo rimasti? Cosa ci dobbiamo aspettare da questa seconda stagione? Beh, chiamiamo subito in causa uno dei nostri amici di RadioTube, uno dei miei preferiti, fondatore di SerialMinds.com e anche channel manager di Iris TV, Diego Castelli. Ciao Diego! Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. Questo Stranger Things, che cos'è e dove eravamo rimasti? Perché immagino che ci siano molti ascoltatori che magari ne hanno sentito parlare sui giornali, perché ultimamente, in questi giorni ci sono molti titoli, oppure hanno visto dei richiami in rete, ma non la conoscono. Cos'è Stranger Things? Ma Stranger Things è una serie di Netflix, innanzitutto, ed è sostanzialmente una gigantesca operazione nostalgia degli anni Ottanta. Nel senso che è un racconto di ragazzini e genitori, appunto ambientato negli anni Ottanta, che si trovano a dover combattere e resistere contro mostri e creature provenienti da altre dimensioni. Ed è soprattutto, appunto, un omaggio a un periodo e a un cinema, a un'idea di racconto che fa parte, appunto, degli anni Ottanta e che rimanda a certa letteratura da Stephen King per arrivare al cinema di Spielberg piuttosto che George Lucas. E ha creato una sensazione incredibile nel corso di quest'anno, prima ancora di andare a vincere poi un sacco di premi, eccetera. Perché? Perché le operazioni di nostalgia funzionano, gli anni Ottanta continuano a essere forti, soprattutto nei confronti di un certo pubblico, e magari poi ne parlerete pure, da quello che ho capito, con altri tipi di riferimento. Ci sono anche degli attori in comune, volendo guardare tra le due cose, ma soprattutto l'operazione nostalgia funziona quando è fatta bene, e in questo caso era fatta benissimo, con precisione direi scientifica. Nel citazionismo e nella capacità di ricostruire proprio un'atmosfera, diciamo. Ovviamente ci stiamo riferendo a It, perché è il film, il film di cui parleremo segreto più tardi. Sì, Segreto di Pulcinella. Ma allora anche qui si parla di paura in questo Stranger Things, cioè i protagonisti sono dei ragazzi, ma non è per ragazzi. È per ragazzi di ieri, da un certo punto di vista. Per chi ha voglia di ritornare a vivere quell'atmosfera lì, anche se comunque è un filino più inquietante di, che ne so, i Goonies piuttosto che altri film del genere che effettivamente erano rivolti a un pubblico di ragazzini. Qui siamo c'è un filino più di malinconia, un filino più di orrore, tra virgolette. Però, ecco, a proposito di orrore, se qualcuno avesse dei figli che lo vogliono vedere, secondo te è adatto per i più piccoli, per i più grandi? Cioè, quanto fa paura? Di non creare danni alla psiche di nessuno, secondo me si può vedere. Da vedere magari appunto in compagnia, non da lasciarli lì. Però sì, le scene di orrore che ci sono gestibili. Ma perché fa paura? Qual è la storia? È la storia di... Viene rapito un bambino, anzi due, volendo guardare, viene rapito un bambino e dobbiamo cercare questo bambino. Ovviamente nella ricerca non c'è di mezzo solo gli umani o i criminali normali, come si vede in tante serie, ma c'è di mezzo il soprannaturale. E in questo soprannaturale si parla di mostri effettivi, quindi che si vedono, e si parla anche di voci e di messaggi che arrivano appunto da altri mondi e da altre dimensioni, il famosissimo upside down, cioè il sottosopra. E quindi ogni volta che ci si approccia a questa dimensione altra e oscura c'è tutta l'inquietudine dell'ignoto e del buio, però appunto tutto abbastanza sfumato dal fatto che i protagonisti sono questi ragazzi che sono simpaticissimi e che quindi hanno la capacità di permettere a tutti di vedere la cosa senza troppo patema. Poi ci sono di mezzo esperimenti, superpoteri, ma sai che quando tu dici magari c'è qualcuno che non lo sa, a me mi scoccia anche dire troppo della prima stagione. Certo, no, è infatti, ancora lì, recuperiamola. Parlando di piattaforme internet si può recuperare più facilmente di una cosa che magari è andata in televisione. Allora, ti chiedo un'ultima cosa, Diego, aspettative per la seconda stagione? Guarda, le aspettative sono talmente alte da essere pericolose, nel senso che è piaciuta così tanto ed è sembrata così precisa per quel momento lì, che il timore è che adesso aggiungeranno dei personaggi, ci saranno altri mostroni, ci saranno un po' di novità, diciamo, nella trama e nel cast, però diciamo che c'è tanta aspettativa di ritrovare quell'effetto nostalgia che ci era tanto piaciuto. Dall'altra speriamo che un anno dopo non ci siamo caricati troppo di aspettative, perché esatto, le aspettative c'erano anche prima della prima, perché l'operazione di marketing era stata molto intelligente, molto precisa, però allo stesso tempo non sapevamo che ci sarebbe piaciuta così tanto. Ora invece pretendiamo che ci piaccia così tanto, ecco. E quando vai a vedere così una cosa del genere, poi il rischio c'è, però diciamo che rimaniamo ottimisti, perché l'impressione è che siamo ancora dalle parti dell'entusiasmo giovanile, con da stare lì con le babbucce, la cioccolata calda, i biscottini. L'hai appena scritta su Facebook, ti ho visto, babbucce, cioccolata calda. Esatto, già ci penso a stare lì a vedermi 9 episodi di fila così. Il 27 lo pubblicano su Netflix, quindi prossimo weekend dedicato a Stranger Things 2. Grazie a Diego Castelli, fondatore di serialminds.com e anche il channel manager di Iris TV, ma noi lo interpelliamo sempre per questa sua passione per le serie. Grazie Diego, alla prossima. Grazie a voi, ciao. Allora, intanto sono arrivati un po' di messaggi al 349-238-6666. L'ha detto Giovanni Allevi, lui divide i detrattori e quelli che dicono, i detrattori che dicono, ma insomma ditegli che ormai ha 50 anni, invece quelli che lo amano e dicono, insomma, gli fanno anche gli auguri, insomma. L'abbiamo detto, Giovanni Allevi divide il pubblico, chissà se dividerà il pubblico anche l'ospite musicale che avremo dopo. Adesso però dobbiamo partire per un viaggio, come sempre, tutti i sabati con RadioTube, viaggiamo. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire. Se si vuole comprendere quanto sia piccolo l'essere umano e quanto grande e potente sia invece la natura, basta immergersi nello spettacolare Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. In autunno, i maestosi alberi di queste straordinarie foreste ritirano la preziosa linfa dalle foglie destinate a cadere in inverno. Il paesaggio si trasforma in una splendida tavolozza di colori, dal verde al giallo al bruno, dando vita allo spettacolo del cosiddetto fall foliage. E come ogni settimana, questo è il momento dei viaggi. Dove andiamo? Dove partiamo con Anna Rita D'Ambrosio? Glielo chiediamo subito. Ciao Anna Rita. Ciao Marta, salve a tutti. Andiamo in un altro posto straordinario per raccontare di altri eventi altrettanto straordinari. La nostra radioguida che avete sentito e che vi invitiamo ovviamente a scaricare vi porta questa settimana nelle foreste casentinesi, nella Toscana, che io francamente ti confesso ho scoperto ascoltando la radioguida e me ne sono completamente innamorata. Ci sono un sacco di avvenimenti che è anche la stagione giusta, autunno, meraviglioso. E infatti ci sono degli eventi proprio in questi giorni dei quali vogliamo parlare perché è giusto segnalarli. Lo facciamo e lo ringraziamo con Stefano Brambilla, caporedattore e giornalista del Touring Club Italiano. Ciao Stefano. Ciao, buongiorno a voi. Ciao Stefano. Stefano, allora, il Festival del Fall Foliage a Badia Prataglia, che è uno degli eventi, io ho visto delle foto su internet straordinarie. Dicevate bene, è proprio la stagione perfetta per andare a scoprire il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che tra l'altro si chiama Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna, se no gli amici poi... No, siamo, diciamo, tutti. È un po' a metà tra Emilia Romagna e Toscana, ma Badia Prataglia, avete detto bene, è in Toscana, e questo weekend è proprio alla scoperta di questi boschi fantastici, pieni di colori, e soprattutto con questo Festival del Fall Foliage si vuole andare a scoprire la zona più ricca di colori. Voi pensate che nelle foreste casentinesi ci sono tantissimi alberi, soprattutto faggi, ma in una certa zona, per esempio nel pianoro della Lama, ci sono tantissime specie di alberi, ognuna delle quali si colora di un colore diverso, per cui potete solo immaginarvi il caleidoscopio di colori che si può andare a vedere. E questo weekend il parco porta proprio alla scoperta. In particolare vi segnalo che si va con un bus sia da Bagno di Romagna, che è in Romagna, sia da Badia Prataglia, che invece è in Toscana. Si va con questo bus alla scoperta della foresta della Lama lungo il confine di una riserva che si chiama la riserva di Sasso Fratino, che è una riserva dove l'uomo non può mettere piede, cioè l'uomo da anni e anni è bandito perché la natura è una riserva integrale, la natura deve fare il suo corso, nessuno ci può entrare, la si può vedere soltanto dall'esterno, ma pensate che boschi antichi, rigogliosi, secolari in alcuni casi e pieni di animali vi potete trovare. E tra l'altro vi segnalo che proprio questo weekend, a parte il Fall Foliage, ci sono molti altri eventi nel parco, tra cui delle escursioni con gli asinelli per andare alla ricerca delle castagne, questo è da Prato Vecchio, quindi perfette per i bambini, e invece da Chiusi della Verna, che è sempre lì vicino, sono luoghi francescani, c'è un festival letterario, si chiama Libra Book Festival, e domenica è proprio la giornata conclusiva, per cui ci sono veramente molte opportunità e consigliamo a tutti di andare a fare una gita all'aria aperta. Stefano, sai che cosa ho letto proprio sul sito del Festival del Fall Foliage? E come racconta come andare in questi avvenimenti? Entra e respira, lascia il resto in città, tanto qui non c'è posto per clacson, smog o affari. Marta, è un paradiso. È perfetto per noi, lasciamo tutto qua a Milano e scappiamo, ho una voglia matta. Poi dopo prima questa di cosa... scappare? Ah no, perché allora, prima di scappare con l'asinello, perché adesso che ho sentito l'asinello assolutamente voglio fare la gita con l'asinello, non me la posso perdere. Dobbiamo scaricare la radioguida. Sono preparata sul sito di Radio 24 e sul sito del Touring Club. Sono stata brava. Grazie a Stefano Brambilla, caporedattore e giornalista del Touring Club. Marta, alla prossima settimana. Grazie Narita, grazie Stefano per essere stato con noi. A Narita ci risentiamo sabato. Alla prossima. RadioTube Social Village. Lo abbiamo detto, grandi ospiti, tanta musica in questa puntata di oggi di RadioTube Social Village. Dai, ascoltiamo subito un pezzo bellissimo, uno dei miei preferiti in questi giorni, perché abbiamo un ospite. Vabbè, ho finito gli aggettivi per questa puntata. Musica. Interstellare fino al centro della vita, fino al male che fa male, la ricerca più ostinata di quel bene esistenziale che è cercare di piacere e di riuscire a fare in tempo. Io ci sono stato attento, ho provato a starci attento. Di 20 in 20 anni vado a capo. 1997-2017, si sono passati 20 anni. Fino a qui la matematica mi assiste. Di 20 in 20. 1997-2017 è il doppio CD, ma un fantastico doppio CD di Niccolò Fabi. Ciao Niccolò, bentornato. Eccoci. Allora Niccolò, intanto ti chiedo, 20 anni, se tu ti guardi indietro e ti guardi allo specchio adesso, ti piaci? Se mi guardo adesso sì, se mi guardo indietro meno, però diciamo che credo che fosse inevitabile che ci fosse un percorso verso il piacersi e quindi verso il miglioramento, si spera. No, però verso il piacersi non è scontato, vuol dire che è un percorso vincente questo. Non so se vincente è la parola giusta, però sicuramente nella mia vita sono felice che questa ricorrenza dei 20 anni dall'uscita del primo disco corrispondano a un momento in cui ho provato forse per la prima volta un certo orgoglio nell'aver pubblicato un disco che non è questo, ma è l'ultimo disco reale che ho fatto, che è una somma di piccole cose, che secondo il mio gusto è la cosa più bella che abbia fatto. Quindi è ovvio che questo mi permette di arrivare a questa ricorrenza in maniera molto, molto serena. Beh certo, molto serena, però dopo un disco che è così una vetta, beh insomma sarà complicato. Infatti questa raccolta, che ovviamente non è un disco, non è un progetto artistico in sé, perché ovviamente non ha non è il nuovo capitolo della creatività, è un modo per rendere omogenea la creatività che ho avuto fino adesso, per in qualche modo insomma tirare una linea e far sì che ci sia proprio un azzeramento e una pagina bianca, completamente bianca, dove scrivere in futuro qualcos'altro. Non so quando, non so cosa, però. Senti, te lo devo chiedere, perché quest'estate a un certo punto era venuto fuori: ah, Niccolò Fabi non fa più dischi. C'era un'intervista in cui tu dicevi, sì, una cosa che poi nel titolo è diventata un'altra, che poi in rete è diventata un'altra ancora. Ma non ti voglio chiedere di questo, ti voglio chiedere cosa hai. No, vabbè, poi alla fine. No, ma abbiamo capito che poi era un po' diverso. Però sì, quello che soprattutto mi incuriosiva era il fatto che per un giorno non si è parlato d'altro, cioè te l'aspettavi che a un certo punto, diciamo, la sola, sì, possibilità che tu smettessi ha creato il panico? Infatti questa è la cosa che adesso ricordo di più, mentre in quei due giorni ho vissuto più l'imbarazzo nel vedere una cosa trasformarsi in maniera un po' esagerata sotto i miei occhi, anche potendo rendere anche maliziose alcune considerazioni sul fatto che ci fosse un'imminente uscita discografica, che è questa, è un concerto da fare, che quindi questa notizia si unisse a quel meccanismo ormai consueto di dover far parlare di sé per vendere dei biglietti e quindi rendere questo concerto eventualmente. Cioè, deve essere sempre qualcosa di lusco. No, vabbè, però siccome è vero che molti artisti lo fanno, è inevitabile che si potesse pensare anche di questa occasione, e allora mi ha lì per lì nervosito. Però è vero che adesso quello che ricordo maggiormente è quello a cui facevi riferimento tu, cioè che la sensazione bellissima di avere un numero di persone ormai neanche così piccolo, esiguo, che vivessero l'ipotesi della fine di un rapporto artistico con me, come un, non dico una sciagura, però come un momento difficile da affrontare, e questo era una quantità di bene nei miei confronti che mi ha indubbiamente commosso. È la cosa più bella che mi rimane ora, perché invece la polemichetta, quella è passata. Alla radio non si vede la copertina, però nella foto della copertina sembri quasi invecchiato. Ti sei reso conto di questa cosa, che sembri più vecchio nella foto della copertina di quello che tu sei identico a sempre invece? No, non sono identico a sempre, e questo lo rivendico anche ovviamente con gioia, perché se Dio vuole il tempo passa e lascia i suoi segni, e trovo una cosa assolutamente naturale e giusta. È vero che quello scatto, quell'espressione non maschera minimamente, anzi, quelli che possono essere il passaggio del tempo, e non mi dispiaceva proprio perché, essendo così anche invadente la mia fotografia su una copertina, cosa che da almeno 15 anni non c'è, la mia faccia in primo piano in una copertina, anche lì volevo sfuggire assolutamente la possibilità di prendere uno scatto che fosse in qualche modo accondiscendente della vanità, ma che fosse proprio, anche se in maniera brutale, esplicito nel dire: questo è un uomo che ha passato 20 anni a fare musica, quindi non è, cioè ne subisce le conseguenze. I segni del tempo non hanno creato uno sfacelo, ma mi rendo conto che geneticamente sono fortunato e non ho il problema delle rughe o di una, non so, di una serie di problematiche di sfacimento. Ma del pensa corpo. Se tu avessi perso i capelli. Ma io l'ho pensato spesso. E pensa a dover riprendere a 50 anni una canzone come Capelli e... No, secondo me sarebbe stato molto significativo. Sarebbe stato molto significativo, al di là del fatto che in questa raccolta è presente il provino della canzone Capelli, che proprio simbolicamente rispetto a quello che parliamo adesso si chiamava Senza Capelli, e quindi in qualche modo non era, per quanto il testo sia assolutamente identico, non era di certo una ode a una capigliatura particolarmente avvincente. Anzi, era un po' il contrario. Era il contrario. Poi ovviamente l'arrangiamento definitivo che è stato pubblicato sul mio primo disco ha un po' confuso le idee, però se chi ha voglia di ascoltarsi questo provino capirà all'origine perché era nata quella canzone. Questa vicenda di Capelli e Senza Capelli fa capire quanto possano essere importanti gli incontri in una storia umana, non solo in una carriera. La persona che ti dice cambiamo il testo, cambiamo... Quanto sono stati determinanti per te gli incontri con le persone? Molto, in una fase iniziale della vita ancora di più, non che adesso non lo siano, ma è indubbio che quando sei all'inizio di qualsiasi percorso umano o professionale le tue certezze sono minori, come è giusto che sia, Però diciamo che quando 25 anni fa il direttore presidente della Virgin, casa discografica che mi aveva appena messo sotto contratto, mi suggerì di leggere quel testo in una maniera diversa e quindi non sottolinearne l'aspetto più cupo e di disagio che all'interno di quel disco era già espresso in tante altre canzoni, io accettai quel suggerimento. È ovvio che dal suo punto di vista non c'era semplicemente un invito artistico, ma la convinzione che attraverso quel tipo di cambiamento la canzone poteva essere anche più fruibile, più immediata. Tant'è che fu così. Io, nella mia immensa presunzione, penso che ci saremmo comunque a parlare di musica io e te, però, e anzi penso anche prima, non adesso in certi termini, ma anche forse qualche anno prima, perché comunque a me ha fatto anche tanto perdere tempo. Ha un po' distratto. Ha molto distratto. Ma a me mi ha purtroppo fatto entrare in una paranoia di qualche anno, di più di qualche anno, nel voler a tutti i costi dimostrare a me stesso e agli altri che potevo fare molto di più di una canzone che poteva diventare un manifesto, un tormentone radiofonico. È un dato di fatto, insomma, che quella scelta di cambiare quel provino fu determinante. È pazzesco. 26 novembre, Palalottomatica di Roma, concerto unico per festeggiare 20 anni di musica, la leggo così come da comunicato stampa. E poi cosa fai? Chiudi il diario e ne apri uno nuovo? È indubbio che sarà una giornata potentissima, ovviamente vorrei pensare di raccontartene gli effetti dopo. Adesso la posso immaginare, però ho degli elementi per pensare che sarà una giornata memorabile nella mia vita, perché in quel luogo, al di là di tutto, probabilmente confluiranno la maggior parte delle persone che mi vogliono bene in termini di amicizia e conoscenza, così come la maggior parte delle persone che mi vogliono bene in senso artistico, perché so che lo stanno prendendo tutti un po' come un raduno. Un raduno tra quelli non solo romani che in questi anni mi hanno seguito, e anche con la soddisfazione loro personale, quindi, di per la prima volta e forse l'ultima sentire quelle canzoni che magari sono state compagne di momenti più intimi della loro vita essere vissute, cantate e ascoltate in un luogo così grande, e invece di essere in 500 o 1000 a cantarle, 7000 persone, sarà per me e per loro insomma potentissimo, molto potente, sì. Che meraviglia. E poi io sono poi curiosa di tutto quello che sarà, perché quello che sarà è, ovviamente io non voglio davvero pensarci, perché sono convinto che l'unico contratto che ho firmato con me stesso e con il pubblico è l'obbligo a essere sincero. Credo che se negli anni le persone si sono affezionate a me non è solo per qualche canzone buona, ma perché hanno percepito che lo spirito che mi animava e che anima ogni mia scelta è quello di andare in una direzione di totale adesione alla mia natura, al mio desiderio, per immettere anche nel mondo non la frustrazione di chi voleva fare un'altra vita ma è stato costretto a farne un'altra. Ma trovo che sia un dovere quasi sociale cercare la propria serenità, perché è contagiosa la frustrazione di chi non lo fa. E io che ne ho la possibilità sono obbligato a farlo, e quindi qualunque strada poi dovessi intraprendere la devo fare senza pensare alle aspettative. Non posso che concludere così. Grazie Nicola Favi, grazie. Io senza capelli sono una pagina senza quadretti, un profumo senza bottiglia, una porta chiusa senza la maniglia, piglia senza pista, un pescatore sprovvisto della sua migliore esca, Don Giovanni senza una tresca, io senza te, uno scettro senza re. Non voglio più chiedere scusa, sulla testa porto questa specie di medusa. Quanto era diversa questa canzone, ve la ricordate? Capelli, questa era senza capelli, cioè l'abbiamo detto, una versione originale, era davvero con tutta un'altra atmosfera, era sì un po' più cupa. È proprio vero che quando qualcuno ti dà un consiglio ti può cambiare proprio tutta una strada, tutta una via. Allora, sono le 16:45, tra qualche secondo linea alla viabilità, poi lo abbiamo anticipato, torneremo ad avere un po' di paura, torneremo in quelle atmosfere tipo Stranger Things, perché questi sono i giorni di It, ne parleremo tra pochissimo. Radio Tube Social Village. Da bambino pensi che l'universo ruoti intorno a te. Pensi che sarai sempre protetto e al sicuro. Poi, un giorno, ti rendi conto che non è così. Perché quando sei solo come un bambino, i mostri ti vedono più debole. E non ti accorgi che si avvicinano. Finché non è troppo tardi. Tieni, prendila. Avreste dovuto vedere il viso soddisfatto di Valeria Bernardi in regia, che è già pazza di questo film. Non so se l'hai già visto, no? Non è ancora andata a vederlo, qui che frigge perché vuole vederlo. Abbiamo parlato a metà del nostro RadioTube Social Village di Stranger Things, perché sta arrivando Stranger Things 2, quindi questa serie di Netflix ambientata negli anni 80, ragazzini, paura, questa è l'atmosfera. Beh, insomma, io voglio prendere pagina 11 del foglio di oggi. Ragazzini e biciclette, siamo negli anni 80, da cui né il cinema né le serie, la seconda stagione di Stranger Things sarà su Netflix il 27 ottobre, riescono a staccarsi. Parliamo di It, il romanzo di Stephen King, altro campionissimo della pop culture, uscito nel 1986, cominciava alla fine degli anni 50, così che i ragazzini spaventati dal mostro avessero il tempo di diventare adulti e tornare al paesello per la battaglia finale. Questo era il libro, uscito nel 1986. In questi giorni è uscito il film, diretto da Andrés Muschietti, che è un regista argentino, sta battendo tutti i record. Ma perché questo fenomeno di It? Cerchiamo di capirlo con l'autrice di questo pezzo sul foglio, nonché una delle più grandi, forse il più, posso dire il più grande critico cinematografico italiano, per me sì, Maria Rosa Mancuso. Ciao Maria Rosa! Ciao, allora, no, Maria Rosa, anche perché, diciamolo, spesso i giornalisti cinematografici sanno di cinema ma non sanno di libri. Quindi tu che ne sai di tutte e due, mi aiuti un po' a capire perché c'è questo boom così forte di It? Cioè, io avevo amici che già da mesi mi chiedevano: dimmi quando esce, la data, non vedo l'ora, è uscito il trailer. Perché questa attesa e questo boom? Beh, perché si mettono insieme almeno tre generazioni: i primi lettori di It come romanzo, quelli che hanno visto la serie da piccoli nel 1990, la miniserie, erano due puntate televisiva, e quelli che ne hanno sentito parlare da allora, perché It ha 30 anni ed è soprattutto un romanzo geniale di uno scrittore bravissimo. Bisognerebbe dare il Nobel a lui se importasse qualcosa della letteratura che piace, ma non che piace nel senso che è compiacente, che piace perché è intrinsecamente geniale. E cercherò di spiegare con un paio di cose. La bravura di Stephen King nel descrivere, per esempio, la preadolescenza è, credo, unica. Quella fase in cui c'è l'amicizia tra maschi e le femmine cominciano a essere vagamente interessanti, ma anche molto spaventose, questo momento. E poi nel mischiare le paure terribili, immaginarie, soprannaturali, il mostro, ma il mostro che sa anche prendere, oltre alla fattezze del clown, le fattezze di quello che ti spaventa di più, perché a uno possono far paura i ragni, a un altro no, lo lasciano assolutamente indifferente. Quindi questo mostro che in realtà è dentro di te in questo modo orribile, perché sa benissimo che cosa ti spaventa di più. Queste paure soprannaturali con le parole poi reali: il bullismo, le molestie, siamo negli Stati Uniti, quindi c'è anche il razzismo. Io credo che una tale costruzione di temi forti, raccontati in maniera molto piacevole, molto avvincente, sia unica. Maria Rosa, i fan del romanzo come escono dal cinema? Contenti, insoddisfatti? La frase tipica è: era meglio il libro. Ma dato che questa comunque è la frase tipica, come usciranno i grandi fan di It e di Stephen King? Io credo che aspetteranno la seconda parte. Perché c'è metà libro? Certo, c'è metà libro, c'è soltanto la parte che si svolge a Derry quando i ragazzini sono ragazzini e si uniscono in questo club dei perdenti. Tra l'altro ragazzini intelligenti, nel senso che sono perdenti e sanno di esserlo, sanno di essere strani, sanno che però mettendosi insieme forse riusciranno a fare qualcosa, a combatterlo questo mostro. La seconda parte sono i ragazzini ormai cresciuti che da una notizia scoprono che a Derry nel Maine il mostro è tornato in azione. È tutta un'altra storia nel libro di Stephen King, si intreccia, no? C'è un avanti e indietro continuo, e invece nel film finisce tutto con la parte degli adolescenti. Sembra più Stand By Me, per un altro film tratto da un libro di Stephen King. È un film, è un libro di 1200 pagine, It, quindi insomma renderlo... È un libro di 1200 pagine, certo, ci volevano almeno due film, ma è stato negli anni 90, e questo lo raccontava Roberto Denti, che allora gestiva la libreria più importante di Milano, dedicata ai ragazzi, è stato un bestseller. Questi ragazzini di cui si dice non leggono niente, acchiappavano le 1200 pagine ed erano molto tristi quando finiva. Tu adesso chi manderesti al cinema e a chi faresti leggere il libro? Perché poi, appunto, l'ho chiesto anche prima a Diego Castelli per quanto riguarda Stranger Things. È materia per ragazzini, per ragazzi, per adulti? Ma io credo, i ragazzini erano tutti al cinema lo scorso giovedì, però credo che nel weekend avevano tutta l'aria di ragazzini che insomma avevano bigiato la scuola perché era molto presto nel pomeriggio, magari anche quelli del tempo pieno. Se posso essere sincera, se uno bigia la scuola per andare al cinema io sono anche un po' contenta, però non ho figli, quindi posso, lo dico forse con troppa leggerezza, però per andare al cinema è formativo. Erano entusiasti. Ma erano entusiasti prima di entrare ancora, c'era proprio un fermento che non succede quasi mai con il cinema, ormai il cinema è diventata, ahimè, qualcosa per adulti. Però consiglierei a tutti i fan, a tutti quelli che dicono era meglio la serie del 1990 perché mi ha spaventato di più, va detto che anche questo è molto spaventoso, di leggersi il libro di King, che è un'apoteosi a questo punto, per vedere proprio come si può andare nelle minuzie dell'adolescenza, come ci si può riconoscere, come si può raccontare l'amicizia senza diventare mai essere pedanti, ma nella seconda parte del libro c'è tutto un gioco di qualcuno degli ex bambini che ricorda, altri che non ricordano, e funziona molto bene perché ci sono delle emozioni e ci sono questi ragazzini che non sempre si ricordano di aver avuto tanto coraggio adesso che sono diventati adulti. Lo definisci un piacere da non lasciarsi scappare il libro, quindi chi avesse apprezzato il film, beh insomma, secondo me, anche perché così ha già qualche anticipazione su quella che sarà la seconda parte, visto il successo di questo primo capitolo, 600 milioni di dollari finora a fronte di 35 milioni spesi, ha un po' l'impressione che il secondo capitolo ci sarà. Grazie a Maria Rosa Mancuso per essere stata con noi. Grazie Maria Rosa, presto. Grazie a voi. E poi vi ricordo anche appunto la recensione in Nuovo Cinema Mancuso che era sul foglio di oggi, imperdibile. Allora, noi adesso diamo la linea al giornale radio delle 17. Abbiamo moltissimi temi estremamente interessanti nella seconda ora del nostro RadioTube, che è il RadioTube Social Network. Tra poco.